sulla tua pelle, sulla nostra pelle. È appunto il nome del Festival dei diritti umani, che si terrà a Bologna il 19, il 20 e il 21 gennaio, quindi tra pochissimo. Noi parliamo di diritti umani, ma in realtà nelle prime due giornate del festival andiamo ad affrontare due tematiche ben precise. La prima è la fragilità dell'ecosistema in cui viviamo, quindi le catastrofi naturali e come queste riescano a toccare la vita di ciascuno. Pensiamo a fenomeni estremi come l'alluvione della scorsa primavera e a come ha cambiato la fisionomia di alcuni luoghi dell'Emilia Romagna. E questa quindi è la prima giornata. La seconda giornata invece è i diritti delle donne e dell'infanzia, anche questi costantemente messi sotto attacco. C'è proprio un'urgenza, che è il motivo che ha spinto l'associazione Geopolis e Paideia a organizzare questo festival e a portare avanti queste tematiche anche con il contributo, mi sembra importante ricordarlo, di Regione Emilia Romagna e del Comune, proprio perché si vuole affrontare il problema in un approccio che lo guardi nel complesso, anche se poi le giornate sono separate, e in una maniera molto visiva. Questo è il motivo per il quale la Cineteca è uno dei luoghi in cui questo festival si terrà, perché nel corso delle prime due giornate ci saranno delle proiezioni di cortometraggi dalle 15 alle 17 in sala Cervi, e quindi lo spettatore potrà vedere questi corti e poi solo successivamente ci sarà il dibattito, che sarà in un altro dei luoghi cuore di Bologna, cioè l'Auditorium Enzo Biagi di Sala Borsa. Questo per i primi due giorni, proprio per coinvolgere tutti e per fare in modo che tutti vedano. Quindi queste cose. I partecipanti hanno la possibilità di scegliere se partecipare solo al cortometraggio o anche al dibattito. Certo, o a entrambi, perché, certo. Perché no, non è un out. Ci saranno questi corti, quindi un qualcosa che possa rimanere allo spettatore e qualcosa grazie al quale lo spettatore può formulare la sua idea, e poi dopo ci saranno delle associazioni in dialogo. Avremo degli ospiti da Amnesty International, da Mediterranea, Lega Ambiente, We World, per esempio, per quanto riguarda la tematica della fragilità dell'ambiente, e avremo, per quanto riguarda i diritti all'infanzia, UNICEF in dialogo, opera di Padre Marella. Quindi si partirà da qualcosa che tutti possono vedere, cioè il corto. Poi si passerà a un dialogo in cui ci sono associazioni e la cittadinanza, in maniera tale da poter effettivamente sviluppare una conversazione, certo, sul tema. Infine, siccome risulta tutto un po' forse astratto, perché l'arte ci aiuta a veicolare, però è difficile dirsi, ok, queste cose terribili effettivamente accadono, ma forse agli altri. È per questo che per la giornata conclusiva abbiamo voluto portare delle esperienze dirette. In questo caso, appunto, il luogo del dibattito è significativo, perché è la sala anziani di Palazzo d'Accursio. Quindi è un luogo che è il luogo simbolo di Bologna. Palazzo d'Accursio è dove è situato il comune di Bologna, e allo stesso tempo ci saranno civili che racconteranno le loro esperienze, politici che ci racconteranno cosa stanno facendo in concreto nella lotta a queste problematiche, e ancora una volta la cittadinanza che potrà ascoltare, intervenire, partecipare a un dibattito che la riguarda. Tematiche di impatto sociale, ospiti da organizzazioni importanti, esperienze vissute realmente, è un festival a cui non poter mancare. Sì, sì, io proprio per il fatto che ci sarà un dialogo, per il fatto che accade proprio nel cuore di Bologna, la Grassa, la Dotta, la Rossa, prende vita,